impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Piero Luxardo, 200 anni di liquori, dal maraschino ai cocktail. Diana Marino. Se vogliamo parlare esclusivamente di maraschino, è un liquore che si utilizza molto anche in gastronomia, in pasticceria, dunque ha un duplice utilizzo. Da un lato come ingrediente gastronomico, per esempio aromatizzazione della macedonia di frutta o profumazione delle torte, eccetera, e poi come ingrediente nei cocktail. È molto raro che uno beva un bicchierino di maraschino puro, anche se non c'è nulla di male naturalmente, però diciamo che questi liquori dolci oggigiorno non vengono più bevuti come nell'Ottocento a fine pasto, o perlomeno molto poco, però hanno diciamo un impiego molto importante nei cocktail e dunque in quel mondo del cosiddetto bere miscelato, nella mixability, che è molto importante negli stili di consumo dei giovani oggigiorno. La capacità di adattarsi agli stili di consumo dall'Ottocento ad oggi. Questa, secondo Piero Luxardo, è la ricetta della sopravvivenza dall'Ottocento ad oggi del maraschino e dell'omonima impresa di famiglia. Fino alla sesta generazione e fino a diventare una delle più antiche aziende europee nel campo della produzione dei liquori, l'azienda porta il nome del fondatore, Girolamo Luxardo S.P.A. È nata nel 1821 a Zara, sulle coste della Dalmazia, ed è tuttora controllata al 100% dalla famiglia fondatrice. Oggi ha sede a Torreglia, in provincia di Padova, dove è stata ricostruita nel 1947 dopo vicende di guerra. L'azienda di famiglia è legata alla storia a doppio nodo. L'attività nacque grazie alla moglie di Girolamo, Maria Canevari, che si dedicò, come era uso del tempo, a produrre liquori in casa e diede la massima attenzione a un liquore che nella cittadina dalmata era conosciuto sin dal Medioevo, prodotto nei conventi col nome di Rosolio Maraschino. Dall'iniziativa familiare, Girolamo fondò la prima fabbrica. In pillole la storia dell'azienda è questa: appartenente al piccolo patriziato genovese, perché era di Santa Margherita Ligure, questo Girolamo Luxardo venne mandato a Zara, sulle coste della Dalmazia, ai primi dell'Ottocento come console del re di Sardegna. Si installò a Zara con la famiglia e all'attività diplomatica, che evidentemente non doveva impegnarlo più di tanto, presto affiancò un'attività imprenditoriale, riprendendo in parte l'attività di famiglia in Liguria, cioè il commercio di attrezzature per la pesca, cordami, armamento di velieri, e poi notò che c'era anche una tradizione in quei posti, quella di produrre in casa o nei conventi il cosiddetto rosolio maraschino, un po' come si fa ancora adesso per esempio in Campania con il limoncello. Il frutto locale era questa ciliegia acidula, la marasca, e che veniva messa in infusione in alcol e poi si otteneva questo liquore casalingo. Lui innovò il processo di produzione, brevettò ed ebbe dunque anche l'esclusiva del procedimento per distillazione a vapore, e quindi ottenne un maraschino molto più intenso di profumo e di sapore rispetto ai normali rosoli dei conventi o delle case. E questa fu la chiave di successo del maraschino Luxardo, che divenne il brand egemone, diciamo, nella produzione locale di maraschino, perché ce n'erano altre di aziende ovviamente. E la Luxardo quindi crebbe nel corso dei decenni, potremmo dire dei secoli, in maniera abbastanza notevole, fino a diventare alle soglie della Seconda Guerra Mondiale, credo, la seconda azienda liquoristica d'Italia. Nel 1829 Girolamo ottenne un privilegio da parte dell'imperatore d'Austria, che riservava all'inventore la produzione esclusiva di tale tipo di liquore per 15 anni. Ancora oggi la ditta porta nella sua ragione sociale la denominazione di Privilegiata Fabbrica Maraschino Excelsior. Nel 1913 il figlio Michelangelo Luxardo costruisce un modernissimo stabilimento, uno dei più grandi dell'impero austro-ungarico. Una svolta vera e propria si è avvenuta all'inizio del Novecento, quando dalla vecchia sede nel centro storico di Zara, che era una piccola Venezia in Cale del Sale, l'azienda si trasferì sulla riva opposta del porto di Zara, costruendo un grande stabilimento con i moderni distillatori a vapore sulla riva di Barcagno, dove ancora oggi è visibile un grande palazzo che appunto era la residenza della mia famiglia. Alla fine della Prima Guerra Mondiale, Zara fu annessa al Regno d'Italia. L'azienda Luxardo divenne ben presto una delle distillerie più importanti del paese, ma anche all'estero, dove documenti storici dimostrano, come racconta Piero Luxardo, che l'azienda ha avuto un'anima internazionale fin dalle sue origini. E oggi le esportazioni raggiungono ormai 79 paesi in tutti i continenti. In realtà Zara, proprio per la sua particolare collocazione geografica, era un porto dell'epoca impero austro-ungarico, perché dopo la caduta della Repubblica di Venezia tutte le terre dell'Istria e Dalmazia, come del resto anche il Veneto, erano sotto la dominazione asburgica. Zara non aveva linee di comunicazione se non ovviamente quella marittima, non c'erano ferrovie, non c'erano strade e di conseguenza era comunque un porto. Quindi l'esportazione, come la intendiamo noi, era qualcosa di intrinseco, di congenito nel proprio codice aziendale, tant'è vero che noi abbiamo medaglie che testimoniano della nostra presenza e di vincite fatte in esposizioni internazionali che risalgono al 1840, addirittura comunque dal 1870 in poi i nostri mercati di sbocco, per quello che dicono sempre di nuovo le storie di famiglia, erano soprattutto la Russia pre-rivoluzione bolscevica, poi gli Stati Uniti, poi moltissimo ovviamente l'impero austro-ungarico, quindi Austria e Ungheria, tutta l'Europa continentale. A me è capitato circa una quindicina d'anni fa di trovare un cliente vicino a Göteborg in Svezia che mi ha mostrato ancora delle fatture della Luxardo che risalevano al 1915-12, prima della prima guerra mondiale. Quindi voglio dire, la nostra azienda ha sempre esportato, un po' per vocazione ma un po' anche per necessità, proprio perché si trovava a Zara. Dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, nel 1940 viene distrutto lo stabilimento. La famiglia è dispersa. Sembrava che dopo oltre un secolo l'attività della Luxardo fosse destinata a cessare. L'unico dei fratelli superstiti della quarta generazione, Giorgio Luxardo, ebbe il coraggio di ricominciare l'antica attività. E nel 1947, assieme al giovane Nicolò III, della quinta generazione, costruiva lo stabilimento di Torreglia, nel Padovano, iniziando così un nuovo capitolo della storia. Piero Luxardo svela un altro ingrediente della ricetta della sopravvivenza anche alle crisi e alle guerre, che si tramanda in famiglia di generazione in generazione. Nell'ultima generazione, o penultima, perché adesso in realtà cominciano ad affacciarsi in azienda anche i nuovi, diciamo i giovani, abbiamo sentito molto, ovviamente, dai nostri genitori, dai nostri zii, il dramma ovviamente che è conseguito alla Seconda Guerra Mondiale, quando della famiglia Luxardo, che fu sterminata dai comunisti di Tito, in realtà sopravvisse solo uno, che poi fu colui che iniziò nuovamente il lavoro. Abbiamo sentito soprattutto questo messaggio, appunto, che si può sintetizzare in una brevissima massima: insomma, quello che conta è la forza, l'equilibrio e soprattutto l'autosufficienza dell'azienda. Quindi, per rubare un motto che ho sentito dire al dottor Maurizio Sella della Banca Sella, azienda ricca, famiglia povera. L'azienda è proprietaria di oltre 20.000 piante di ciliegie marasche, varietà acidula, coltivate in marascheti industriali unici in Europa. Anche il liquore di marasche ha seguito la storia di Luxardo. E per tutti questi passaggi storici, soprattutto per i più difficili, Piero Luxardo e la sua famiglia hanno un motto, che è una ricetta di vita. Quello che è il motto che è stato più importante per me nella mia vita, un motto che mi ha insegnato mio padre, ma in tedesco: Mut verloren, alles verloren, es wäre besser nie geboren sein. Perso il coraggio, perso tutto, sarebbe meglio non essere mai nati. Ci sono stati periodi in cui questa massima è stata molto utile. Penso che questo sia testimoniato proprio dalla storia dell'azienda. E ora, dopo la storia di Luxardo, ecco quella di una piccola impresa, Mercato Metropolitano. Le varie iniziative avviate a Milano in occasione di Expo c'è stato il mercato metropolitano di Porta Genova, sui Navigli, dove una volta c'era la fiera di Sinigaglia, circa 15.000 metri quadri per pranzi, aperitivi e cene, e spesa a chilometro vero, come dice il suo fondatore e ideatore Andrea Rasca. Nato come progetto temporaneo, ora è una soluzione che piace anche all'estero. L'idea in sé è nata in 20 anni di esperienza che ho fatto in tutto il mondo nella ristorazione. Io ho aperto punti vendita dal Giappone all'America, all'Inghilterra, lavoro in questo campo da quasi 20 anni. La crisi c'è stata, ma dopodiché c'è stato un cambio, non bisogna più parlare di crisi, è stato un cambio dei consumi e anche dei consumatori. Quindi siamo tornati a riassorbire i vari concetti del urban farming, dei farmers market che stanno nascendo in tutto il mondo, dei supermercati però etici o attenti al biologico, all'organico come Whole Foods e tutti i migliori supermercati del mondo, e a tutto questo abbiamo abbinato la ristorazione, lo street food, e in tutto questo l'abbiamo messo in un unico contenitore che è diventato una piazza e alla quale abbiamo aggiunto i valori, quelli non riguardanti il cibo, che sono l'arte, il design, la musica, il cinema all'aperto. Cioè abbiamo ricreato una piazza dove tutte le persone di Milano sono venute più di una volta, perché in una città da 1,5 milioni di persone noi in 4 mesi abbiamo fatto 2,5 milioni di clienti, di visitatori che sono venuti da noi, di tutte le età, di tutte le razze, di tutte anche i livelli sociali. Questo è stato l'esperimento sociale più importante, riqualificando un'area che era destinata a spaccio di droga leggera, di spaccio anche di biciclette rubate il giorno prima. L'abbiamo riqualificata. Per noi questi valori sono importanti, cioè dare sostenibilità economica al progetto, che è fondamentale, una sostenibilità sociale al progetto. Questo è un nuovo modo di fare business. Ora, queste strutture dove sono? Noi adesso vogliamo toccare tutte le città d'Italia e tutte le città d'Europa, quindi adesso siamo a Torino. Abbiamo preso la vecchia stazione di Porta Susa, la bellissima stazione di Porta Susa, quella vecchia, di fianco a quella nuova. Questo sarà il secondo esperimento che faremo per poi tornare di nuovo a Milano. Stiamo già valutando Roma, Venezia, Napoli, Bologna, e siamo stati richiesti, questa è la cosa molto bella, da Bruxelles, Londra, Tokyo, Madrid ed Amsterdam e Berlino. Quindi stiamo già viaggiando e visitando spazi per aprire in quelle zone, perché il nostro è un modello di business, come dicevo, che non è legato solo all'italianità, ma è legato soprattutto all'artigianalità, al lavoro dei piccoli. Small is beautiful è un motto che noi abbiamo, ma è anche una teoria economica di Schumacher del 73, che dice che non tutti i business del mondo devono avere delle economie di scala per poter stare in piedi. Diamo qualche istruzione per l'uso di, per chi volesse mettere su un business, a capire un po' come si fa. Per fare 15.000 metri quadri di un mercato del genere, i primi preventivi che ci arrivavano erano di circa 5 milioni di euro, che è anche assolutamente ragionevole. Io non volevo investire in strutture, volevo investire nelle persone, negli individui e nell'offerta. Allora noi siamo riusciti a tirare su più o meno, fra banche, finanziamento e soldi nostri, 1,5 milioni, e l'alternativa era non farlo. Dato che per me l'alternativa di non fare non esiste, l'abbiamo fatto con 1,5 milioni, e con un investimento pubblicitario che doveva essere di 300.000 l'ho fatto con 500 euro fisicamente io di Facebook. Abbiamo avuto un ritorno di comunicazione per 3.200.000 euro di presenze su stampa, radio, in 4 mesi, con quasi 900 uscite, non solo nazionali ma internazionali. Il nostro ritorno è stato talmente forte che in 4 mesi ne abbiamo fatto circa 8 milioni di euro di fatturato, con dei mall molto interessanti, ma perché non abbiamo mai, è chiaro che avevamo un business plan, sono tutti economisti, ma il nostro discorso è che il primo business plan che avevamo in mente noi era quello di dare il massimo dell'esperienza ai consumatori. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.